Perfetto! Con la potenza delle vostre voci avete spezzato l'incanto e allontanato le sirene. Ma prima di proseguire il viaggio, potrebbe essere saggio ispezionare con attenzione la nave. Perché non utilizzate lo strumento di ispezione che portate con voi?